24 mattino. L'intervista. E allora alle 8:21 minuti eccoci nuovamente in diretta con lo spazio dedicato all'intervista. Oggi ospitiamo e saluto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Esponente anche del Partito Democratico, detto anche da due giorni il rottamatore, sindaco. No? A Milano dicono rutamat, non so se a Firenze c'è un modo per dire il rottamatore. No, no, c'è rottamatore oppure qualcosa di peggio che però non si può dire in radio perché non è molto educato. Non si può dire. Ma lei ha fatto questa intervista dicendo bisognerebbe, altro che nuovo Ulivo, ci fa sbadigliare questa formula del nuovo Ulivo, bisognerebbe rottamare tutti i nostri leader. E che si fa? Distrugge tutto, insomma. Ma io non è che voglio distruggere tutto, io vorrei che noi dal punto di vista formale applicassimo lo statuto del PD, perché lo statuto, le regole del gioco che ci tengono insieme dicono che dopo 3 mandati in Parlamento si fa spazio ad altri e invece i nostri vivono di deroghe e come tali, come dire, questo tema non è mai posto. Però al di là dell'aspetto tecnico formale, il ragionamento è un pochino più ampio. Detta in sintesi estrema, quasi brutale, il governo Berlusconi secondo noi ha fallito. Ha fallito perché non ha fatto le cose che doveva fare, a partire dalla riforma fiscale piuttosto che dalle grandi investimenti e grandi opere. E a fronte di questo fallimento il centro-sinistra dovrebbe far che cosa? Dovrebbe tornare a accendere l'entusiasmo, la passione e la speranza di un popolo. E invece che ti facciamo una grande e bella discussione sul nuovo Ulivo, sulle alleanze, sulle coalizioni, roba che oggettivamente farebbe sbadigliare chiunque. Quindi il punto non è quello di mettersi adesso a ragionare dello statuto del PD, il punto è quello di dire: siamo consapevoli che questi 20 anni di governo berlusconiano e di classe dirigente sempre la stessa da parte del centro-sinistra hanno marcato un fallimento, secondo me, dal punto di vista della politica, al quale si risponde dicendo: per mandare a casa Berlusconi la precondizione è cambiare la classe dirigente del partito. Quindi lei dice, da una parte c'è nonno Silvio, come lo chiama lei, e noi abbiamo i D'Alema, i Veltroni, i Bersani, che cosa sono, nonni anche loro? Zii? No, non so se sono nonni, zii, non conosco i gradi di parentela, dico soltanto che Berlusconi non può essere dipinto sempre come un'ossessione dal nostro campo. Qualche giorno fa un autorevole parlamentare del PD ha detto: facciamo un governo di liberazione nazionale da Berlusconi, portando dentro Daffini alla sinistra estrema. Ecco, con questo tipo di proposte qui Berlusconi rimane al potere per altri 15 anni. Però sindaco, guardi che ieri Bersani è stato un po' duro nei suoi confronti, ha detto non è che basta distruggere per rifondare, se c'è Maradona, ha detto, bene, ben venga. Insomma, lei forse, non so se si riferiva a lei, si sente il Maradona del nuovo, PD. Se lei si ricorda il Napoli che vinse quello scudetto, mi sento molto più Bruscolotti, un vecchio terzinaccio, vecchia maniera, che non Maradona. Il problema non è essere Maradona, essere Bruscolotti o essere Careca, il problema è essere capaci di raccontare una storia credibile agli italiani. E il PD allora, è capace. In questi mesi noi non stiamo parlando agli italiani, perché quando si fanno 2 pagine per raccontare tra il nuovo Ulivo e il vecchio Ulivo, ma le facce sono sempre le stesse, noi non riusciamo a incrociare le persone. Dopodiché, sa qual è la fregatura? È che io, siccome non ho detto, io non chiedo niente, io faccio il sindaco di Firenze, che per me è il mestiere più bello del mondo, ho a che fare quotidianamente con problemi concreti, puntuali, dalle buche, dalle strade, alle questioni culturali della nostra città. Io sono interessato a occuparmi di questo, quindi non funziona il giochino che fanno spesso i nostri leader nazionali: ah, lui dice così perché in realtà pensa di voler fare chissà cosa domani. È così come io mi tiro fuori e dico voglio fare il sindaco di Firenze, rivendico la libertà in un partito che si chiama democratico di poter dire quello che penso. Ha capito, ma lei dice la gente è stanca, via tutti, e poi via tutti che rimane? Io dico via i leader nazionali che hanno dimostrato negli ultimi 20 anni di dire sempre le stesse cose. Ripartiamo dal territorio. Quando mi viene chiesto, ma nel territorio ci sono personalità in grado di rappresentare questa speranza e questa passione? Sì, se lei guarda dai comuni alle province alle regioni, dal nord al centro al sud, trova delle persone che stanno in nome del Partito Democratico e del centro-sinistra raccogliendo quella, quella speranza di cui invece i leader nazionali sembrano essere privi. Qualcuno ha detto Chiamparino, gli Zingaretti, i Renzi, qualcuno ha detto anche i Renzi, però lei dice faccio il sindaco di Firenze. Guardi, uno che è stato eletto un anno fa, è bene che faccia le cose per le quali è stato eletto, quindi io sono stato eletto da un anno, faccio il sindaco di Firenze, lo considero davvero una cosa straordinaria, sarà che sono nato e cresciuto a Firenze, quindi come tale ritengo questa città un patrimonio straordinario. Detto questo, però, il punto è, dai, smettiamola di continuare a rinchiuderci nel fortino, smettiamo di continuare a pensare che la gente sbagli. La gente è stanca, il nostro popolo è stanco perché non sente quella proposta sulla quale far riaccendere la scintilla dell'entusiasmo. Io vorrei che ripartissimo di qui. Temo che la grandissima discussione sul nuovo Ulivo e sulle formule della coalizione non interessi nemmeno gli addetti ai lavori. Io, per esempio, ho letto quelle cose, non ci ho capito niente. Ma neanche io. No, io non ci ho capito. Io poco più di lei, forse, o poco meno, anzi, direi. È una bella gara, diciamo. È una bella gara. Senta, sindaco, per chiudere un minuto, però, quest'estate il sindaco di Roma, Alemanno, ha lanciato un tema, secondo me, molto interessante sulla distruzione e la ricostruzione di Tor Bella Monaca, seguito tra l'altro dal sindaco di Milano che ha detto anche noi al Giambellino, che è un quartiere di Milano, faremmo lo stesso. Lei da sindaco di Firenze, ci sono delle parti di Firenze, dei quartieri che andrebbero, secondo lei, proprio sono brutali, rasi al suolo e ricostruiti migliori? In teoria ci sono sempre, e in teoria è sempre tutto molto bello e molto giusto. Il problema è che per le leggi oggi italiane si fa fatica anche soltanto ad abbattere e eventualmente ricostruire, magari con criteri energetici migliori, le stesse cose che già c'erano. Io le dico questo, da quando sono sindaco noi abbiamo abbattuto 3 strutture, l'ultima, la pensilina fuori dalla stazione, ma solo per abbatterle ci è voluto un sacco di tempo. Allora, se stiamo sul campo della provocazione culturale, bene. Se ragioniamo in termini di concretezza, preferirei fare un ragionamento diverso, quello che abbiamo fatto a Firenze, che le sintetizza in 10 secondi, no a nuove costruzioni, quindi piano strutturale a volumi zero, e prima di costruire si recuperino i tanti beni, soprattutto demaniali, le vecchie caserme, le vecchie strutture abbandonate, che sono vuote, una ferita in città, anziché ragionare di slogan e in teoria di distruzione e ricostruzione, iniziamo con l'evitare ulteriori speculazioni, ulteriore consumo di terreno pubblico. La ringrazio, Matteo Renzi, grazie, ovviamente buona giornata. Grazie, sindaco, a lei, buona giornata. Sindaco di Firenze, il tema del nuovo Ulivo fa sbadigliare Renzi, che dice, ci ho anche capito poco di questa discussione sul nuovo Ulivo. E allora 800 24 00 24, se volete telefonare in diretta. Tra poco parliamo del nostro sondaggio che già state votando in tanti su radio24.it, vale a dire, la domanda è questa: la visita di Gheddafi con il suo show, i cavalli berberi, le 500 hostess, le frasi con le donne sono trattate meglio da noi che da voi, ci date 5 miliardi di euro all'anno, invaderanno gli immigrati l'Europa e diventerete Africa. E poi l'ultima anche: gli italiani furono i veri ispiratori col maresciallo Graziani dei campi di concentramento, siete stati voi i maestri di Hitler. Insomma, tutto questo vi dà fastidio oppure no, badate alle cose concrete, questo è solo folklore. Radio24.it per votare, 800 24 00 24 per telefonare in diretta tra poco. Sono le 8:33 minuti, allora eccoci per il nostro sondaggio in diretta, 800 24 00 24, se volete intervenire, se volete votare su radio24.it. Parliamo della visita di Muammar Gheddafi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Nel nostro bianco o nero vi chiediamo, vi dà fastidio la visita di Gheddafi? C'è da dire che però state votando in molti e l'83%, anzi l'86%, dice di sì, forse offuscate dalle dichiarazioni show di Gheddafi. In questi giorni si nasconde il vero tema, come racconta oggi il Sole 24 Ore, vale a dire degli affari, del business, delle importanti relazioni industriali tra Italia e Libia. Ma certo, quando Gheddafi dice le donne sono trattate meglio da noi che da voi, quando dice che gli italiani sono i veri ispiratori dei campi di concentramento, i maestri di Hitler siamo stati col maresciallo Graziani, o quando dice che l'Islam deve essere la religione dell'Europa, o che ci date 5 miliardi all'anno oppure vi invaderanno gli immigrati dall'Africa. Certo, queste dichiarazioni è chiaro che portano a un fastidio comprensibile probabilmente dagli italiani. Ne parliamo con l'onorevole Margherita Boniver, che saluto del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole, benvenuta. Buongiorno, grazie. Così come l'onorevole Furio Colombo del Partito Democratico, che oggi, buongiorno onorevole Colombo. Buongiorno a voi, buongiorno all'onorevole Boniver. Oggi lei sul Fatto Quotidiano è molto duro in prima pagina, parlando di caso Gheddafi, squallido e oscuro, le ricorda l'immagine di un Fellini triste. Partirei da qui, perché le ricorda questa immagine, onorevole? Beh, siamo nel paese che ha affidato al cinema la profezia delle sue vicende politiche. Fellini ha visto nelle esagerazioni grottesche il pericolo che incombeva sull'Italia, quello di poco potere, molto spettacolo e un'ignoranza totale nel rapporto fra il governo e gli interessi del paese, il governo gestito come spettacolo. È uno degli eventi più tristi. Di questo evento triste Fellini è stato certamente un profeta. Non dimentichiamo lo sceicco bianco, non dimentichiamo situazioni nel quale il cinema ha detto prima delle cose che sembravano esagerate, sembravano grottesche, sembravano puro divertimento, purtroppo sono accadute, stanno accadendo. Si può venire in Italia e organizzare uno spettacolo con 300 ragazze e 30 cavalli come se fosse il circo di Monte Carlo. Ecco, onorevole Boniver, su questo, queste sono le critiche che vengono fatte. Cioè, ieri parlavo anche con un politologo americano, Edward Luttwak, che non può essere in diretta ovviamente essendo in notte in America, ha detto la vedo dall'America in maniera molto critica questa volta nei confronti dell'Italia, perché l'immagine è davvero che per fare affari si tolleri davvero tutto. Le chiedo per esempio, forse la frase che la trova più sensibile, la questione delle donne, cioè se Gheddafi dice le donne sono trattate meglio da noi che da voi, come dobbiamo interpretarla? Come folklore? Come una provocazione? Dobbiamo tenerne conto? Ma francamente sì, ho letto sui giornali di questa carnevalata che Gheddafi ha voluto inscenare con delle hostess. Evidentemente se avesse dovuto parlare a una platea libera probabilmente avrebbe avuto pochissima gente ad ascoltarlo. Le frasi sulle donne sono una costante anche nel suo libretto verde. Stiamo parlando evidentemente di una persona estremamente difficile, diciamo, da gestire fra virgolette dal punto di vista anche del protocollo. Ricordiamo anche gli sgarbi istituzionali che fu capace di fare proprio Gianfranco Fini l'anno scorso in occasione di celebrazioni simili, ma tuttavia io credo che mi auguro quantomeno che tutto questo folklore, che non mi diverte, verrà archiviato al più presto, perché la sostanza poi delle celebrazioni del trattato di amicizia e di cooperazione con Italo-Libico è una sostanza estremamente interessante, di grande spessore economico e commerciale, perché le imprese italiane che ieri erano rappresentate ai massimi livelli alla cena di fine Ramadan con Gheddafi e Berlusconi sanno perfettamente che cosa significa avere delle aperture in un mercato ricchissimo come quello libico per le infrastrutture, per il petrolio, per le autostrade. Insomma, c'è tutta una serie di imprese italiane che soprattutto in questo momento di crisi guardano al mercato libico e da lì anche al mercato medio orientale con estremo interesse. Ma certo, sia il Sole 24 Ore oggi che il Foglio in prima pagina mette quelli che sono gli affari che probabilmente verranno conclusi anche per esempio per Finmeccanica. Gheddafi ieri: siamo stato molto interessato per la nostra industria di difesa, ci saranno alcune fregate FREM che verranno probabilmente vendute, ci sarà la costruzione, dice il Foglio, della metropolitana di Tripoli. Insomma, ovviamente anche interessanti sviluppi economici per le nostre imprese italiane. Però chiedo onorevole Colombo, questo non è un aspetto di cui dobbiamo tenere conto, perché è un aspetto importante, come dice l'onorevole Boniver. Lo chiedo a lei proprio perché lei è uno dei tre, credo, esponenti del Partito Democratico che allora non firmò il trattato, la ratifica del trattato in Parlamento Italia-Libia, quando invece il partito lo ratificò, cioè firmò. Lei però è uno dei tre che non firmò. E lei ha detto detto non firmò, non firmiamo il Parlamento. Non votò a favore. Ho votato contro insieme con i deputati radicali e dopo aver presentato invano 6.000 emendamenti, per la ragione fondamentale che mi dispiace che l'onorevole Boni, perché è stata presidente di Amnesty International in Italia e che quindi ha fatto molte cose nel suo passato che riguardano i diritti umani, abbia trascurato nel ricordare che sì, ci possono essere degli interessi commerciali, ma c'è economici anche grandi, ma noi ci stiamo comportando come in una brutta commedia di Brecht, cioè ignorare totalmente, ridicolizzare i diritti umani che vengono vergognosamente trascurati in questo trattato, dando alla Libia mandato di occuparsi dei migranti che disperatamente fuggono dai conflitti africani, tentano di salvare la vita, tentano di portare i loro bambini e di venire verso l'Europa e verso l'Italia, in quanto l'Italia è la più vicina, non per invadere l'Italia, ma per sfuggire alla morte, per sfuggire alle torture, tentano di chiedere diritto di asilo e non possono, e la Libia si incarica a pagamento di farne scomparire i corpi. Questo è esattamente quello che succede. Però, onorevole Colombo, quando il trattato con la Libia è in funzione, noi non sappiamo più quante persone muoiono nel Mediterraneo, noi non sappiamo quante persone muoiono nel deserto. La vicenda recentissima dei 245 rifugiati che volevano rifugiati dall'Eritrea, scampando da una guerra spaventosa, è finita nel niente. Sappiamo che sono stati abbandonati nel deserto senza alcun questo però onorevole Colombo, questo è un tema che si pone tutte le volte che si fanno affari. Allora non bisogna fare affari con la Cina, che certo sull'aspetto dei diritti umani è un paese non all'avanguardia, con Teheran che forse lapida una donna perché accusata ingiustamente di adulterio, eppure si fanno affari commerciali. Cioè è un tema che si pone laddove si fanno affari con mezzi paesi del mondo che hanno il petrolio, per esempio. Chiariamo che il nostro paese è il paese gemello ed è il paese fratello di un paese che non ha firmato alcun impegno e alcuna garanzia per i diritti umani nel mondo. Onorevole Boniver, su questo, la richiesta del rispetto dei diritti umani, che effettivamente non sono rispettati in Libia, su questo possiamo essere d'accordo, che ne dica Gheddafi sul ruolo delle donne? Sì, sulla questione dei diritti umani è una questione di grandissimo rilievo e di grande spessore, naturalmente, però questa descrizione della Libia di massacratore di immigrati africani francamente è assolutamente irreale. Parliamo un attimo di numeri. I libici sono circa 5-6 milioni, non c'è mai stato un censimento in un territorio sconfinato. I cittadini, diciamo, non libici che sono arrivati in Libia per lavorare in Libia o per tentare di arrivare in Europa sono oltre 2 milioni e 200 mila. Di questi 2 milioni e 200 mila, quasi un milione sono quasi tutti egiziani, sono quelli che mandano avanti il commercio, l'economia del paese, eccetera. Gli altri sono in Libia, perché la Libia è un paese molto ricco rispetto ai paesi del Corno d'Africa, per esempio, e alcuni di questi vorrebbero evidentemente arrivare in Europa perché vengono da paesi totalmente a rischio come l'Eritrea, come la Somalia, e quindi è assolutamente naturale che queste persone cerchino di raggiungere l'Europa. E però vengono in Europa sfruttati dai mercanti di esseri umani, e nei confronti di questo vero e proprio traffico mostruoso c'è stato un giro di vite proprio da parte dei libici, e che però ora chiedono soldi. Sotto processo 500 di questi sfruttatori. Che però ora chiedono soldi, cioè ha sentito i 5 miliardi, o ci date 5 miliardi all'anno, sì, oppure sì, diventerete l'Africa, ha detto voi. Sì, cioè, suona come un ricatto messa così, no? Decisamente suona come una richiesta, diciamo, molto pressante. Tuttavia, il ragionamento che i libici fanno e che mi hanno fatto in una recente visita con la Commissione Schengen a Tripoli è quella di dire: ma se voi siete così terrorizzati, parlava dell'Europa in generale, degli arrivi di tutte centinaia di migranti, aiutateci a combattere appunto l'immigrazione clandestina. Allora, 800 24 00 24, io vorrei ascoltare il primo ascoltatore, Enrico da Como, buongiorno. Buongiorno. Che ne pensa? Dunque, Io sono furibondo per quello che Berlusconi sta permettendo di fare a quel pagliaccio. D'accordo, io sono un elettore della Lega Nord. Stiamo sempre parlando di, attento perché poi i libici l'ascoltano, stiamo sempre non parlando di un leader di un paese, il io pagliaccio. Sono l'elettore della Lega Nord, la quale tace, la cosa mi fa infuriare ancora di più. Beh, oggi avrà già letto La Padania, il suo quotidiano. No, non lo leggo più La Padania. Vabbè, perché il titolo è L'Italia sia cristiana, proprio rispondendo a Gheddafi. Poteva dire porgiamo un'altra guancia a questo punto. Ecco, e queste qui sono le cose che non comprendo della Lega, perché noi stiamo aspettando. Ma no, nel senso a dire che ha detto l'Italia sia cristiana, cioè come è una risposta che dà fialtro che Islam. A me sembra una risposta alla camomilla. Avrebbe bisogno di risposte un pochino da togliere la pelle, quel buffone di Gheddafi. Addirittura buffone. E che dovevano scrivere, insomma, sempre ripetono. Vabbè, comunque lei è molto arrabbiato da elettore leghista. Interessante. Allora, tra l'altro, il tema si lega anche alla questione Lega Banche. Io lo ricordo perché alle 9 poi Gianfranco Fabi ne parlerà. Lega Banche, perché poi sapete, la Libia, il fondo libico, è anche il primo socio di maggioranza in Unicredit, la prima banca italiana. Quindi c'è il tema molto interessante degli affari importanti, che è un tema, ripeto, che è stato oscurato da queste esibizioni, sicuramente anche fuori dalle righe del leader libico. Comunque il traffico, poi entriamo tra un attimo. Bianco o nero? Allora, stiamo discutendo della visita di Gheddafi. Vi dà fastidio? Vi chiediamo nel nostro sondaggio. C'è da dire che l'86% dice di sì. Vorrei sentire anche il parere di un altro ascoltatore, Stefano da Vicenza. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. A lei e ai suoi ascoltatori. Non sono arrabbiato, non sono un votatore della Lega, ma c'è un libro che si chiama Rabbia, scritta da Bat Yeor, dall'editore Lendau, che descrive l'abitudine di Gheddafi esattamente. E mi stupisce che gli italiani sono indignati. Quando la Libia o Gheddafi dice che gli italiani erano i maestri di Hitler, forse bisogna ricordarsi che un giorno la cricca italiana che fa gli affari con i libici saranno considerati anche loro i traditori. Addirittura. Ma che vuol dire la cricca? Voglio dire, ma cioè non bisognerebbe fare affari, secondo lei? Secondo me no, perché il petrolio è solo buona quando se la tiene fuori dalla terra. Allora noi pensiamo che non abbiamo di armi per combattere gli arabi in una guerra economica che si sta facendo tuttora adesso, non è riconosciuto come tale, e credo che se uno risponde tienti questo petrolio, che in realtà stiamo facendo. Vabbè, ma allora non possiamo prendere petrolio dall'Arabia Saudita, non possiamo fare affari con la Cina, con paesi dell'Africa, metà paesi dell'Africa, con tanti paesi, insomma, secondo questa logica, se io seguo la sua logica, Stefano. Ma intanto io voglio salutare, ci ha raggiunto, rimarrà con noi qualche minuto e lo ringrazio di questo, Monsignor Domenico Mogavero. Monsignor Mogavero, buongiorno. Buongiorno a voi. È responsabile affari giuridici della CEI e a capo della diocesi di Mazara del Vallo. L'abbiamo lasciata ieri, leggendo le agenzie, a una lunga anticamera per incontrare il colonnello. L'ha incontrato oppure no? Non l'ho incontrato. E perché? Non l'ha concesso questo privilegio? Ma diciamo che dal punto di vista del programma, del cerimoniale, del protocollo, era una eventualità, non era una certezza. Nella probabilità io ho accettato di correre il rischio della lunga anticamera perché ero interessato a un eventuale primo contatto diretto con Gheddafi. E che gli avrebbe detto? Ma io avrei cominciato a parlare da quello che è stato uno dei passaggi. A me non interessa in questa sede una valutazione politica o commerciale né della visita né dell'intervento del colonnello. Avremmo parlato del Mediterraneo, è stato un passaggio molto significativo del suo discorso, al di là di tutto il resto delle considerazioni. Il Mediterraneo come mare di coloro che lo abitano, il Mediterraneo come mare di incontro di popoli, il Mediterraneo come luogo di pace e luogo di costruzione di una civiltà nuova. Questo mi sarebbe interessato molto, soprattutto per i risvolti umanitari legati al problema degli immigrati. Degli immigrati. Avrebbe potuto porre qualche problematica. Qui c'è l'onorevole Furio Colombo e l'onorevole Margherita Boniver che l'ascoltano. L'onorevole Colombo ha puntato molto sul fatto che in Libia, dopo questo trattato, lui dice, non si sa neanche molti immigrati che muoiono, morirebbero nel deserto e vengono taciute queste cose. Lei avrebbe posto queste problematiche? Anche, diciamo, non che non si sa molto, non si sa nulla obiettivamente, sì, certo. Perché non ci sono... Qualcosa trapela, qualche sì. Storia è venuta fuori, come quella degli eritrei, sì. Un po'... Sì, sì, però diciamo che il più non trapela, e speriamo che non sia dello stesso genere di questi dettagli che sono venuti fuori anche nelle scorse settimane. Certamente è un argomento che dovrebbe interessarci di più, perché non abbiamo risolto il problema con i respingimenti, perché buttare così sulla sponda sud del Mediterraneo quelli che sono dei potenziali richiedenti asilo o dei potenziali rifugiati politici e qualificare comunque il movimento dalla sponda sud verso l'Europa semplicemente come un commercio gestito da compagnie di malaffare mi sembra un giudizio molto, molto sommario e non giusto. Però, Monsignor Mogavero, perché lei non si è mostrato, mi pare invece, preoccupato quasi per nulla, anzi ha detto è una provocazione utile, quando Gheddafi ha detto l'Islam dovrebbe essere la religione, l'Europa abbracci l'Islam, e questo è l'invito anche fatto a queste 500 hostess. Le chiedo anche la questione del che ne pensa del fatto di raggruppare 500 hostess, ragazzi molto avvenenti a pagamento, qualche conversione c'è stata anche. E lì credo che ci sia stata molta pubblicità battute ad effetto, perché in quel contesto, che non era certamente un contesto estremamente impegnativo sia per così il genere di persone coinvolte sia per l'interesse che aveva il colonnello stesso, non è parsa una affermazione che preludesse a una invasione o una conquista religiosa dell'Europa. È stata più o meno una battuta. Io dicevo seriamente, quando la ritenevo una provocazione, per noi europei che in materia di religione siamo diventati un po' troppo schizzinosi, tutto ciò che ha sapore di religioso o di sacro lo guardiamo subito con sospetto, non ci fa senso più di tanto se cristiani o missionari o religiosi o religiose subiscano persecuzioni in giro o se c'è un atteggiamento ostile nei confronti della religione. Cioè le dice almeno impariamo da Gheddafi la centralità della religione che lui pone. Magari non dico la centralità, ma che consideriamo il fatto religioso come un fatto che costituisce parte integrante di una storia, di una identità, di una prospettiva anche. Relegare il fatto religioso alla mera sfera privata senza alcuna incidenza pubblica non la ritengo una conquista di civiltà. Non lo so, su questo, onorevole Colombo, lei se magari sulle altre cose sì, magari su quest'ultimo punto seguirà meno Monsignor Mogavero, ma le chiedo un suo parere, la preoccupa l'uscita sull'Islam e l'islamizzazione dell'Europa di Gheddafi, oppure Monsignor Mogavero dice anche una utile provocazione per capire quanto la religione può essere importante? No, non credo che da un personaggio come Gheddafi possa venire alcunché di utile, soltanto dannoso e di corruzione. L'immagine di 500 donne a pagamento, che chiamiamo hostess per convenzione, ma non sappiamo, poverine, come sono state obbligate ad essere parte di questo triste evento, squallido evento. Addirittura obbligate. Lo ha detto anche Lutwak, squallido evento. Pensare che lì ci possa essere un barlume anche solo lontano di qualcosa che ha a che fare con la religione, no, mi pare sbagliato. La religione è stata centrale in altri momenti, nella Spagna di Francisco Franco la religione era centralissima e nelle prigioni si moriva di garrota, quindi non vedo una garanzia in questa cosa, mentre sono felice di sentire Monsignor Mogavero ricordare gli orrori che accadono quando non si riconoscono i diritti umani e si lascia morire la gente nel mare o nel deserto. Vorrei ricordare che dei tre deputati di PD che si sono uniti ai radicali e hanno votato contro quel trattato ignobile, oltre a me, che non posso certamente definirmi così, gli altri due erano cattolici. Sarubi, e lo hanno fatto in quanto cattolici. Uno è Sarubi e l'altro chi è? Uno era l'onorevole Sarubi, l'altro è l'onorevole Mantini. Hanno fatto in relazione e diretta, esplicita, con il minuto che spetta a un deputato per dire il proprio dissenso, hanno detto il proprio dissenso in quanto cattolici. Quindi credo che questo si unisca a quella parte delle cose che ha appena detto Monsignor Mugavero, che ovviamente condivido in pieno perché sono civili e sono umane. Allora io mi devo fermare ringraziando tutti l'onorevole Bonivero, l'onorevole Colombo, Monsignor Domenico Mugavero per essere stato con noi, essere stati con noi. Ripeto, continuate a votare su Radio24.it. Il sondaggio vi dà fastidio, la visita di Gheddafi, sempre l'87% per il momento, 86 anzi mi correggo, dice di sì, continuate a votare, dunque si aggiorna ogni secondo. E allora, che dire, ringrazio Antonella Migliaccio in redazione e Filippo Aureggi in regia. L'appuntamento è a domattina 7:20 più o meno. Do la linea a Gianfranco Fabi che anche oggi condurrà 9 in punto, e che dire, 24 mattino e tra Radio24.it, questa è la nostra mail. Domani.